Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Italy is one of the soundest Eurozone countries, except for one component, its debt. It has a heavy debt burden, with the debt that is very largely borne by the Italians themselves. Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale, Fondo Monetario Internazionale che ieri ha rilasciato il documento sull'Italia. Come sapete, una volta all'anno c'è una missione del Fondo Monetario Internazionale, dello staff del Fondo Monetario Internazionale, che in base all'articolo 4 dello statuto dell'organizzazione multilaterale può, deve anzi, recarsi in uno dei paesi membri e fare un sopralluogo, tra virgolette, economico. Ebbene, qual è il voto con cui il Fondo Monetario Internazionale è rientrato da questo viaggio? Viaggio che tra l'altro è avvenuto a maggio, poi il rapporto è stato presentato il 16 giugno al Consiglio dei direttori esecutivi del Fondo Monetario Internazionale, ma reso noto, pubblicato soltanto ieri mattina. Allora, dal punto di vista positivo, il fondo prende atto che ci sono state delle riforme nel nostro paese, il Jobs Act per esempio, che hanno avuto un impatto positivo, al punto che le previsioni di crescita che erano state stimate nello 0,5% nel World Economic Outlook pubblicato durante gli incontri di primavera, dunque l'aprile scorso, ecco, queste previsioni sono state riviste al rialzo dello 0,2%, dunque previsioni di crescita per il 2015 dello 0,7%. Ecco, detto questo, poi il rapporto dal punto di vista positivo si ferma un po' lì. Perché? Perché continuano a dire i funzionari del Fondo Monetario Internazionale che noi dobbiamo andare avanti. Abbiamo dei problemi seri di produttività, abbiamo dei problemi seri di riforma di pubblica amministrazione. Non basta avere delle idee di riforma, bisogna che queste riforme siano portate in avanti, siano compiute e che soprattutto diano dei risultati. Ecco, a questo però ha risposto Carlo Cottarelli, direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, il quale ha cercato di difendere la posizione italiana dicendo per esempio che il fondo ha ignorato alcuni aspetti importanti positivi del nostro paese. Per esempio, siamo il secondo più importante paese manifatturiero d'Europa e il settimo più importante nel mondo. Vero, però il compito del fondo non è di dirci quello che sta andando bene, il compito del fondo è di puntare il dito sulle cose che non funzionano e su come poterle migliorare. E il dito in questo caso è puntato solo in una direzione, e cioè quella delle riforme che sono indispensabili per poter rilanciare la crescita e di conseguenza creare occupazione. Solo mettendo in moto questo meccanismo sarà possibile contenere il debito pubblico e dunque migliorare la nostra situazione e per avviarci verso un circolo virtuoso, cosa non impossibile, perché lo stesso fondo riconosce che il paese, e questo credo lo sappiamo tutti, ce ne lamentiamo tutti, ha uno straordinario potenziale che purtroppo resta inutilizzato. Ecco, questo è il sistema complessivo che riguarda l'Italia. Ma ho un'altra notizia italiana. Oggi in America si è parlato solo d'Italia. C'è stata una conferenza stampa di John Elkann, presidente di Exor, che ha rilanciato su un'offerta importante per acquistare la Partner Re, che è una compagnia di riassicurazione, un'offerta di quasi 7 miliardi di dollari. C'è una battaglia e un'offerta ostile, il consiglio della Partner Re resiste, cerca di fare un accordo con un'altra società di assicurazione che si chiama Axis, la quale però paga molto di meno. Per darvi un'idea, Exor pagherebbe $137.50 contro i circa $121-122 che offre la concorrenza. Ecco, nonostante il gap, il consiglio di amministrazione resiste. Devo dire che John Elkann è stato piuttosto aggressivo ieri, molto chiaro, molto lucido. Ho fatto due chiacchiere con John Elkann, sentiamo. Ingegnere Elkann, allora qui le cose avanzano con Partner Re. Qual è la vostra strategia, il vostro obiettivo? Volete cercare di entrare in possesso di questa società, ma c'è un consiglio ostile. Ecco, qual è la strategia che state seguendo? Ma noi abbiamo avuto ottimi incontri con gli azionisti di Partner Re nelle ultime 3 settimane e oggi è stata una giornata che ha permesso di fare chiarezza. c'è stata molta disinformazione che è stata voluta dal consiglio di Partner Lì. Quello che è positivo è che parlando con gli azionisti abbiamo potuto chiarirlo e abbiamo anche avuto la possibilità di sapere cosa gli azionisti, che sono i veri proprietari della società, vogliono. E l'opportunità oggi è, da una parte, avere chiarito in maniera molto trasparente tutti i punti che loro avevano e anche riuscire a dare la possibilità sia in termini di certezza che anche condizioni economiche per i preferred shareholders di qualcosa che sarà sicuramente più attraente per tutti loro. Ecco, perché il settore delle assicurazioni? Puntate su questo settore, voi come famiglia siete stati presenti nel settore assicurativo prima. Ecco, cosa c'è dietro questa scelta strategica? Noi siamo stati presenti storicamente, abbiamo posseduto società assicurative e riassicurative. Negli ultimi anni abbiamo cercato di comprare una società di dimensioni grandi per noi che fosse nei servizi. Abbiamo guardato ai servizi finanziari dove abbiamo competenze e Partner Lì ha le caratteristiche che ci piace: una società grande, una società globale, una società profittevole e una società che noi, se l'acquisiamo, controlleremo. E questo per farla crescere, no? Diceva prima nell'incontro in inglese. Noi vogliamo costruire delle società e fare in modo che queste società siano società più forti. Sì, no, diceva attraverso acquisizioni, esatto, con un'espansione globale. Lo abbiamo dimostrato in questi tanti anni. Più per esempio con Cushman & Wakefield. Cushman & Wakefield è un esempio di una società che sotto la nostra proprietà è cresciuta come ricavi, si è diversificata da una società americana andata nel mondo, ha aumentato i profitti e ha aumentato anche le persone che lavorano. E potrebbe esserci un interesse magari per essere attivi anche in Italia, poi attraverso Partner Lì? Partner Lì è una società globale che ha clienti in tutto il mondo e anche clienti in Italia. Io sono sempre stato ottimista perché l'offerta che noi abbiamo fatto è di gran lunga la migliore. Quello che è importante è aver avuto oggi la possibilità di chiarire alcuni aspetti e soprattutto poter spiegare in maniera chiara agli azionisti di Partner Lì le tante informazioni false che sono state emesse dalla società. Ecco, puoi riassumerci i punti chiave che avete spiegato oggi? I punti chiave sono una superiorità della nostra offerta da un punto di vista economico. La nostra offerta è tutta in natura, cash. La nostra offerta ha maggior certezza di chiudere e questo è a vantaggio degli azionisti common, che sono quelli che vendano. Per gli azionisti preferred che rimangano, saranno azionisti di una società più forte finanziariamente, perché noi abbiamo una storia e una tradizione di essere prudenti in come gestiamo le nostre società. Avranno la possibilità per 5 anni di non avere le loro azioni chiamate e abbiamo migliorato anche il tasso di interesse di 100 punti base. Ci sarebbero miliardi approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato d'Italia, abbiamo parlato di Exor e mi è venuta in mente una pubblicità che, beh, Exor, come sapete, azionista di FCA, Fiat Chrysler Automobile, ha fatto pubblicità molto belle qui in America, e una l'ha fatta sulla 500L, e si vedevano questi due che erano nel deserto e vedevano questa macchina lontana che sembrava una 500, cioè, ma no, non è possibile che sia una 500, invece piano piano si avvicinano ed è in effetti una 500L. E uno degli attori chi era? E beh, era Puff Diddy, il grande cantante rap americano, e dunque ispirandomi a quella pubblicità, ai rapper e a Puff Diddy, beh, speriamo che ci sia un momento buono, un momento felice per l'Italia sotto molti punti di vista, l'Italia dal punto di vista macro e dal punto di vista micro, e dunque vi propongo di Pharrell Williams, Happy, felicità, alla ricerca, diciamo, della felicità. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. By the way, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along.